Discorso secondo, discorso della liberazione della Mecca dal potere idolatrico. Disse che Allah lo benedica e la abbia in gloria. Non c'è divinità tranne Allah. Egli non ha condomini nella sua qualità divina. Egli ha mantenuto la promessa che aveva fatto al suo servo, l'ha sostenuto e ha, lui da solo, sconfitto la miscredenza coalizzata. O Quraysciti, Allah ha cancellato la vostra alterigia del tempo dell'ignoranza e la superbia delle vostre nobili origini. Tutti gli uomini discendono da Adamo, e Adamo fu formato con l'argilla. O genere umano, noi vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina. Abbiamo fatto di voi nazioni e tribù affinché possiate conoscervi a vicenda. Colui che più degli altri teme Allah è presso Allah il più nobile di voi. In verità, Allah è colui che tutto sa e che di tutto è bene informato. O Quraysciti, come pensate che io stia per trattarvi? Risposero: O nobile fratello e figlio di nobile fratello, non ci aspettiamo da te null'altro che bene. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: io vi dico quello che disse Giuseppe ai suoi fratelli. Oggi contro voi non c'è biasimo alcuno. Andate in pace, siete liberi. Fu fatto il 20 di Ramadan dell'anno nono dell'Egira, dalla porta della nobile Kaaba, dopo la sua purificazione dagli idoli.